24 Mattino. Buongiorno, buongiorno da Giulia Crivelli. Dopo la nostra chiacchierata con Luisella Costamagna e Angelo Maria Perrino, partiamo adesso proprio dalle prime pagine dei giornali, che come vi avevo anticipato hanno quasi tutte un titolo dedicato a Obama, con diversi tagli. Il Sole 24 Ore, come dicevamo, parla degli effetti sulla borsa, perché dopo le tragedie annunciate e solo parzialmente confermate, dicevamo, dalla prima borsa che aveva aperto dopo le prime borse che avevano aperto, quelle asiatiche, dopo la proclamazione di Trump presidente mercoledì mattina, che erano scese, ieri invece le borse europee, soprattutto quella americana, hanno reagito molto bene, possiamo dire così, alla vittoria di Trump. Wall Street ai massimi storici, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Corriere della Sera invece pubblica la fotonotizia di Donald Trump che stringe la mano a Barack Obama, e come dicevamo è una foto da vedere veramente in alta risoluzione, perché le espressioni, ma anche la stessa stretta di mano, alcuni giornali pubblicano addirittura dei fotogrammi di come si è arrivati a questa stretta di mano, dice molto. Le immagini a volte, le espressioni del viso dicono molto. Il titolo: Trump da Obama, ora collaboriamo. Due gli editoriali che vi segnalo, uno di Barbara Stefanelli, che è vice direttore del Corriere della Sera, è l'unico vice direttore donna di un importante quotidiano italiano, e il titolo del suo pezzo è Uomini e donne, lezioni americane. E mi è piaciuto anche perché, più che appunto spiegare che secondo me è un esercizio difficilissimo da fare da qui, più che spiegare perché magari molte donne americane hanno votato per Trump, dice appunto che cosa possiamo imparare noi, o comunque quali riflessioni sono opportune qui in Europa e in Italia. E Aldo Cazzullo invece, anche lui si esercita da italiano, non so quanto tempo abbia passato negli Stati Uniti, però si è trovato a New York, ha fatto alcune riflessioni, e il suo editoriale si intitola Quel pericolo di restare divisi. E ripeto, secondo me questo è un esercizio veramente difficile da fare, quindi non so quanto valido, quello di appunto di giornalisti italiani che cercano di interpretare questa vittoria. Abbiamo visto che non ci sono riusciti a prevederla, e forse neanche a spiegarla, i giornalisti americani. Per un italiano, secondo me, è ancora più difficile. Vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera anche un articolo che poi trovate a pagina 38 di Guido Santevecchi: in Cina via internet la festa dei single acquisti miliardari. Oggi infatti, 11 di novembre, è il Singles Day. La Cina è forse quello che lo ha cavalcato di più, e naturalmente diventa una festa molto commerciale. E proprio qualche minuto fa sul telefono mi è arrivata la notizia che su Alibaba, che è il più grande portale di e-commerce cinese e quindi anche del mondo, in 5 minuti, perché in Cina era già appunto iniziato l'11 novembre, ben prima che iniziasse qui da noi, in Cina sono stati venduti prodotti fatti regali per Singles Day per 1 miliardo nei primi 5 minuti. E Alibaba è stato fondato da Jack Ma, che è proprio in copertina sul Corriere della Sera accanto a Beckham, il titolo appunto, poi trovate l'articolo a pagina 38. Il Messaggero: Trump primo atto giù le tasse, quindi ancora un taglio diverso, una sottolineatura diversa quella del Messaggero, cioè tra le primissime mosse della Casa Bianca ci sarà probabilmente la promessa appunto di portare un'aliquota al 25% e poi lo stop a Obamacare, cioè la riforma della sanità, che era stato uno dei cavalli di battaglia dei due mandati di Obama. E anche qui la foto è la stretta di mano tra Donald Trump e Barack Obama. La Repubblica: Trump smonta l'era Obama. Quindi anche, se vogliamo così, un po' subito un titolo che già esprime una critica, smontare l'era Obama, perché questa della riforma della sanità, che peraltro è stato probabilmente uno dei motivi per i quali Trump ha vinto, cioè perché la Obamacare, difficilissima anche qui da spiegare in Italia, noi abbiamo un servizio sanitario nazionale egregio, tra i migliori al mondo, negli Stati Uniti invece sono decine di milioni le persone senza copertura sanitaria. Obama ha cercato di introdurre offre una copertura sanitaria però a pagamento. Non è piaciuto il modo in cui l'ha fatto ai suoi oppositori e, ripeto, secondo molti osservatori è stato uno dei motivi più forti per spingere a votare Trump, cioè la promessa di smontare Obamacare, che infatti pare Trump Trump ha confermato proprio il giorno dopo la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti. La Repubblica però ha quello che noi chiamiamo in gergo palchettone, cioè il titolo principale è quello che vi ho letto su Trump, subito sopra però ce n'è un altro, perché Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, ex direttore di Repubblica, si esercita nella, possiamo anche definirla l'ennesima intervista a Papa Francesco, con il quale si vanta di avere un rapporto privilegiato. Papa Francesco non ha mai confermato tutte queste telefonate, però evidentemente ci sono, se poi ne viene fuori un'intervista di due pagine, che trovate la pagina 2 e 3, in questo caso è stato anche tirato in ballo Trump. Il titolo però è "Il Papa, due punti, abbattere i muri che dividono, bisogna costruire ponti". E a domanda appunto su Trump, Papa Francesco ha risposto: "Non do giudizi sui politici, ma voglio capire le sofferenze che le loro scelte causano ai poveri e agli esclusi". E naturalmente moltissime altre le parole condivisibili di Papa Francesco, trovate appunto questa lunga intervista alle pagine 2 e 3 di Repubblica di oggi. La Stampa, un titolo ancora diverso, "Il giorno delle due Americhe". Ricordiamo sempre che è vero, è democraticamente eletto Donald Trump, però comunque con una percentuale di poco superiore a quella avuta da Hillary Clinton, soprattutto nel voto popolare, ce lo ricordano anche alcuni ascoltatori. Da qui quindi l'idea, appunto, non di una vittoria schiacciante, ma di una vittoria che spacca l'America in due. Questo è il taglio scelto dalla Stampa. Anche in questo caso la foto è di Donald Trump e Obama, ma è bella questa scelta della Stampa, che non pubblica la foto della stretta di mano con quelle espressioni un po' così corrucciate, potremmo dire, soprattutto di Obama. Qui invece c'è un Obama sorridente e un Trump tranquillo, quindi non il momento della stretta di mano, ma un momento prima o un momento dopo di questo incontro allo Studio Ovale. Ci fermiamo però un attimo per una pausa e ci troviamo tra pochi minuti. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Vi ricordo prima di tutto, e anzi prima di tutto vi ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno mandano messaggi SMS al 348-239-238-6666, che poi vale anche per i messaggi WhatsApp. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, ne abbiamo già viste alcune, ve ne segnalo altre. Il Manifesto ha un titolo fortissimo che è Ku Klux Trump. Il riferimento è al fatto che il Ku Klux Klan, che incredibile a dirsi, ma esiste ancora negli Stati Uniti, in alcuni stati del sud, diciamo in generale i movimenti razzisti americani hanno palesemente sostenuto Trump nella campagna elettorale. Da qui appunto Ku Klux Trump, e poi la foto però è di una delle proteste che ci sono state poi ieri, chiamiamole proteste anti-Trump, con questo slogan "Not my president". Vi ricordo che appunto la schiavitù negli Stati Uniti è stata abolita nel 1865 e che poi c'è stata tutta l'era del segregazionismo, quella in cui sugli autobus per esempio bianchi e neri dovevano restare separati. Quindi la questione razziale sicuramente è molto presente negli Stati Uniti, ce ne dimentichiamo forse, e questo sostegno del Ku Klux Klan a Donald Trump ha sicuramente fatto molto discutere negli Stati Uniti, ma anche fuori dagli Stati Uniti. La Verità, qui sempre Trump, però con un taglio ancora diverso. La Verità, sapete, è un quotidiano fondato da poco più di un mese da Maurizio Belpietro, è sicuramente un giornale di opinione, quasi sempre i titoli sono diversi dalla cronaca seguita dagli altri giornali. Oggi appunto non si poteva non parlare di Trump, non titolare su Trump in copertina, però con questo taglio: "Gli anti-Trump non vogliono farci votare. Napolitano capeggia l'intrigo, come per Brexit la sinistra contro il suffragio universale perché il popolo non risponde ai comandi". Il riferimento è a due infelicissime uscite, una di soprattutto quella di Fabrizio Rondolino, ad alcune precedenti uscite di esponenti, soprattutto della sinistra, che di fronte appunto all'esito, per esempio, del referendum in Gran Bretagna del 23 giugno per la Brexit e a questo voto americano, dicono: ma forse allora dovremmo ripensare il suffragio universale, che è un'enormità e che quindi poi giustifica anche, se vogliamo, reazioni altrettanto forti come queste. Questo titolo, gli anti-Trump non vogliono farci votare, naturalmente, voglio pensare che non sia assolutamente così. Dalla prima pagina della Verità, però, vi segnalo, a proposito appunto di spunti diversi, originali di questo quotidiano di Maurizio Belpietro, un articolo di Luca Telese: il figlio di Sofri intervista Renzi e la scuola precetta gli studenti. È successo questo, che a Pescara, appunto, Luca Sofri è andato a fare propaganda per il sì al referendum del 4 dicembre e, racconta Luca Telese, c'è stato chi ha partecipato, da qui la parola anche qui forte, precetta, ha ricevuto un attestato che vale agli scrutini. Libero, gli squadristi di Ilari, anche qui sempre per sobrietà di titoli e per non fare un po' il contrario di fatto di quello che stanno cercando di fare Trump e Obama negli Stati Uniti, cioè di riconciliarsi, di archiviare per sempre i toni troppo accesi, violenti quasi, della campagna elettorale. Qui invece abbiamo gli squadristi di Hillary. Gli squadristi di Hillary sarebbero appunto i manifestanti che, secondo il manifesto, sono state decine di migliaia, non è chiaro quanti siano. Comunque le manifestazioni di reazione alla vittoria di Trump con questo slogan "Not my president" ci sono state a New York ma anche in altre città. Il Libero si concentra su questo: scontri con la polizia, la sinistra USA fomenta l'odio contro Donald, proprio come in Italia accadde con Berlusconi. E vedremo che punto torna, o vedrete, perché non abbiamo tantissimo tempo, però sui giornali di oggi vedrete c'è ricorre molto questo paragone tra Donald Trump e Silvio Berlusconi. Il giorno, Trump, un voto no global, questa è una delle molte interpretazioni che si sono fatte della vittoria di Donald Trump, cioè che ha interpretato il malessere che la globalizzazione porta con sé, a distanza ormai di 15-20 anni da quando abbiamo iniziato a parlare di globalizzazione, che ha sicuramente è stato un terremoto economico in molti paesi alla globalizzazione. Semplifichiamo, naturalmente ci vorrebbero ore per spiegare il fenomeno. Una delle conseguenze della globalizzazione è stata la perdita di posti di lavoro a favore di economie, di paesi dove le aziende hanno delocalizzato. L'unità è un altro titolo. C'era una volta in America, naturalmente sappiamo che Renzi aveva fatto un chiarissimo endorsement a Hillary Clinton, e quindi questa è l'unità, è il quotidiano del PD, e quindi questo titolo: Trump incontra Obama, ma si prepara a cancellare le conquiste del suo predecessore. Vedete come un titolo già contiene un'opinione. Obamacare viene considerata una conquista, e così pure alcune riforme fiscali introdotte da Obama, che invece per Trump e i suoi sostenitori, che lo ricordiamo sono la metà delle persone che hanno deciso di andare a votare negli Stati Uniti, è esattamente il contrario. Stop alle tutele sanitarie per i più deboli, giù le tasse ai super ricchi, dazi e isolazionismo. Ci sono tre interviste richiamate in prima pagina, tutte e tre dello stesso segno, cioè al grande contrarietà per la vittoria di Trump e tentativi di spiegazione. Due sono di italiani: da Ciamaraini, che dice Hillary fermata dall'America misogina, e vabbè, e Sergio Fabbrini: ha vinto grazie alla destra estrema, quindi un po' appunto il sostegno anche del Ku Klux Klan, ahimè. E poi vi segnalo forse l'unica, secondo me, degna di essere letta, che è quella a Glenn Cooper, che è americano, e anche in questo caso ci spiega un po' la componente razzista del voto a Trump, però almeno appunto lo fa da americano, e che quindi, secondo il mio modesto parere, ha più titolo a parlare che non qualcuno che vive in Italia e non conosce davvero la situazione del razzismo in America, e che credo balzi all'occhio di chiunque ha vissuto in America per un po'. Per esempio, vi segnalo solo questo, è un esempio che faccio spesso: se voi andate a Londra vedete tantissime coppie miste, bianchi con neri, bianchi con asiatici, asiatici con neri. Non accade lo stesso negli Stati Uniti, ma neanche a New York, che già è comunque un mondo particolare rispetto a tante altre città, piccole soprattutto, degli Stati Uniti. Il Fatto Quotidiano ha un titolo in prima pagina dedicato a Trump, che è «Gelo alla Casa Bianca, ma fuori gli USA si incendiano». E poi c'è anche un approfondimento su Clint Eastwood, che dopo essere stato sostenitore di Obama all'inizio del primo mandato, poi in questa campagna elettorale aveva detto già per il secondo mandato di Obama non lo sosteneva più, e poi in questa campagna elettorale aveva sostenuto Donald Trump. Però a questo punto io vorrei dare la parola a Mauro Meazza, e non so se partire dall'Inter anziché dalla prima pagina della Gazzetta, che titola Pioli Power, perché abbiamo questo nuovo allenatore, però forse magari ne parliamo dopo. Prima parliamo di cose serie, cioè del Sole 24 Ore. Buongiorno Mario. Mauro. Mario Icardi, no, Mauro Meazza. Buongiorno Giulia. Tu hai già ricordato come noi abbiamo dato spazio alle questioni economiche relative a questo dopo voto di Trump. Allora, io ti voglio segnalare solo un articolo delle varie pagine che sono dedicate a questo, un articolo da meditazione questa volta. Sai presente l'articolo da meditazione, certo. Giulia? Ecco, l'articolo da meditazione, a mio modesto parere, per citarti, è l'analisi che fa Moria Longo di questa giravolta dei mercati. Il primo momento questo spavento, questo brusco calo nelle borse asiatiche, e poi ieri invece tutto bene. Ecco, l'analisi di Moria Longo è che forse i mercati, come dire, stanno guardando davvero troppo nel breve il primo discorso di Trump, perché ha un po' rassicurato su alcuni aspetti, non su tutti in realtà per noi, perché poi, come leggi nelle pagine successive, ad esempio ci sono delle perplessità per l'industria dell'auto, e per noi è comunque importante, ci sono delle perplessità per il nostro export negli Stati Uniti, che vale qualcosina come 36 miliardi, quindi, e poi naturalmente sul debito che Trump promette di creare con il programma fin qui esposto, che varrebbe anche lì 7 mila miliardi di dollari. Non so se tu puoi mettere due eurini, o Alessandro ha lasciato lì due eurini da mettere. Ti segnalo, ma passiamo a cose di casa nostra, non ci sarà più il Tax Day. Il 16 giugno non sarà più il Tax Day, perché ieri, discutendo del decreto legge fiscale, che ancora deve essere definitivamente convertito in legge, la Camera ha deciso che non andremo più tutti alla cassa il 16 giugno, ma ci sarà una suddivisione di date. Tutti i particolari naturalmente nella sezione di norme e tributi, che tu leggerai, come fa anche Alessandro, in modo come si leggono le pagine di norme e tributi, Giulia? Sì, con religiosità. Ma con religiosità, no, dimmi del DURC, si chiama così, l'ho visto. No, DURC. No, il DURC, che come sai è il documento unico di regolarità contributiva, viene citato oggi nelle pagine di norme e tributi, perché l'offerta per la Corte di Giustizia UE, l'offerta in una gara pubblica vale, ma deve esserci il DURC. Non si può poi produrlo successivamente. È una specie di attestato di buona condotta. Volevo invece chiederti delle cose. Dunque, oggi è venerdì. Sì, e purtroppo. Ci sono le pagine dedicate alla moda 24. Ora, siccome la moda, ho visto che la moda e il lusso vanno abbastanza bene, e lo scrive, aspetta perché non riesco a ritrovare la pagina, Giulia Crivelli, ecco, Giulia Crivelli, che non so se conosci. È una mia omonima, te l'ho detto anche venerdì scorso. Una parente forse, sì. Non so. Ecco, ci parla del fatturato della moda e del lusso, anche qui una cifretta, niente male, 83,6 miliardi, ma la notizia che mi sembra di cogliere, mi puoi smentire, puoi sentire questa tua omonima, è che è andato bene il 2016, sta andando bene. Questo mi sembra uno di quei dati, come dire, da sottolineare a dita incrociate, perché appunto, come poi riporta lo stesso intervistato dalla signora Crivelli, che non ho il piacere però di conoscere, dalla signora Crivelli, del domani non v'è certezza, citando così il poeti, tu sai che i poeti a me sono sempre cari. Sì. Ti segnalo che abbiamo le istruzioni puntuali per la compilazione della domanda di rottamazione delle cartelle Equitalia. Io non ne cartelle? Ho, no, no, per non fortuna hai cartelle, no. Equitalia. No. Vabbè, però diciamo che molti nostri connazionali ne hanno, quindi avranno piacere di apprendere dalle pagine di norme e tributi, lette come sempre religiosamente, che cosa devono fare per chiudere i conti con Equitalia. Infine, ma non per questo meno importante, dalle pagine di finanza e mercati, che vanno lette avidamente, dalle pagine di finanza e mercati la controarringa di Google per l'antitrust dell'Unione Europea. Tu sai che Google rischia, per un abuso presunto di posizione dominante, una multa da 7,5 miliardi. Stamattina sono molto miliardario, come senti. Ecco, hanno presentato le loro controdeduzioni, a loro parere, in realtà invece questo abuso di posizione dominante ha migliorato di fatto la vita degli utenti. Vediamo, lasciamo anche questo forse come articolo da meditazione. Tutto ciò premesso, cara Giulia, salutami la tua omonima, okay. Se per caso la vedi, la incontri, insomma la conosci, ti auguro una serena domenica e soprattutto traffico! Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte di questa rassegna stampa. Abbiamo poco tempo, direi, anche se non tutti gli ascoltatori naturalmente sono d'accordo, di restare ancora un attimo su Trump. Il titolo del giornale è Razzisti chic, e qui è la maggior parte degli articoli dedicati nelle prime pagine del giornale alle reazioni alla elezione di Donald Trump. Fa anche un po' appunto il riassunto delle critiche anche un po' fuori posto secondo il giornale, ma in parte anche secondo me, della sinistra, che da una parte con alcuni suoi esponenti ha lanciato questa affermazione di voler abolire il suffragio universale, perché quando gli elettori si esprimono poi dei pareri che ad alcuni non possono piacere, vedi Brexit, vedi elezione di Trump. E poi c'è un editoriale di Alessandro Sallusti che si intitola Il centrodestra si sveglia ma diffidi dalle imitazioni. Il riferimento è che se Berlusconi, scrive Sallusti, non è una mia opinione, perché alcuni ascoltatori anche dicono che esprimo troppe opinioni, può anche darsi, se Berlusconi è un po' l'equivalente italiano di Trump, ecco, allora il centrodestra deve diffidare delle imitazioni di Berlusconi, perché le imitazioni non ci sono, o comunque non sono all'altezza. Tantissimi gli approfondimenti, ve ne segnalo alcuni se può appunto stuzzicare la curiosità di ascoltatori donne ma anche uomini, alcuni su questo, quello che viene definito da Barbara Benedettelli per esempio sul giornale Il Paradosso, cioè il maschilista che piace alle donne, il tycoon ha vinto anche perché non ha nascosto il suo lato macho. A proposito invece abbiamo sentito prima di la questione che riguarda Google, il gigante della tecnologia americano, a pagina 5 del Sole 24 Ore un approfondimento di Claudio Gatti proprio sulla Silicon Valley sconfitta dalle fabbriche. Lo stato dei giganti high tech e culla del Partito Democratico sarebbe sotto shock per il trionfo di Trump. E qui accontento un ascoltatore che mi prega di pronunciare oggi Apple e non Apple come si dovrebbe. Eccolo accontentato. Trovate anche molti retroscena, naturalmente, o meglio, più che retroscena, ipotesi su come sarà la squadra di governo del presidente americano, ma ne parleremo sicuramente, ne parleranno nei GR, ci saranno forse degli aggiornamenti oggi. Altri aggiornamenti, per esempio, dalla Repubblica, ma anche da tantissimi altri giornali, sulle conseguenze in politica estera o comunque all'estero delle elezioni di Trump. In particolare vi segnalo a pagina 15 della Repubblica un articolo di Jason Burke, che è fra i massimi esperti di estremismo musulmano. Il suo ultimo libro, ci ricorda Repubblica, è The New Threat from Islamic Militancy, la nuova minaccia della militanza islamica, e quindi appunto l'articolo, pagina 15 di Repubblica, è dedicata alle conseguenze sul Medio Oriente. Secondo Jason Burke, Trump è un inesperto nella regione del caos, tutte le sfide del nuovo leader del mondo. Un'altra intervista interessante a Bill Emmott, ex direttore dell'Economist, che sul giorno dice stop allo strapotere dei monopoli, e secondo Emmott il tycoon può cambiare rotta, e Bill Emmott dice ha dato voce all'ira degli esclusi, un'interpretazione insomma fatta da molti, che sicuramente ha un suo fondamento. Vi segnalo invece dal Corriere della Sera, dalla Repubblica, ma anche da tantissimi altri giornali, tanti ricordi di Umberto Veronesi, che, come avete sentito, poi a Cuori e Denari sarà al centro appunto della puntata di oggi di Cuori e Denari, il grande oncologo scomparso a 90 anni due giorni fa. Vi segnalo in particolare dal Corriere della Sera un estratto da un suo libro che si intitola, anzi da un libro che sarà in edicola sabato con il Corriere, Abbiamo fatto molta strada, e in queste poche righe che il Corriere anticipa ci si concentra soprattutto a un tema caro a Umberto Veronesi, che era l'eutanasia, il mio appello alla pietà per un fine vita dignitoso. Ma forse ancora più bello, più toccante è invece un altro intervento riproposto da Repubblica, pagina 21, dove con questi estratti si delinea quello che era per Umberto Veronesi l'ospedale ideale. E da qui l'ultimo testo del professore, scritto per la giornata organizzata da Repubblica sull'umanizzazione delle cure, il virgolettato: basta chiamarli malati, nella medicina del futuro ci siano solo persone. E questa frase, secondo me, bellissima: nessuno è la sua patologia. Il buon medico di domani è quello che saprà condividere il peso psicologico con il paziente. Ancora tantissimi approfondimenti vi segnalo, perché delle tante cose che ci siamo persi per via di eventi sicuramente importanti, eclatanti, come le elezioni in America, c'è quello che sta succedendo nella capitale, perché Virginia Raggi, che è stata eletta sindaco con una percentuale molto alta, deve risolvere dei problemi enormi. Allora, dal Messaggero, per esempio, vi segnalo un aggiornamento su come si sta evolvendo anche la giunta Raggi. Nomine in Campidoglio, Marra raddoppia, il fratello va al turismo. Via la rotazione dei dirigenti, il fedelissimo della Raggi, appunto Marra, resta al personale, al parente che è un vigile, promozione e stipendio più alto. Il Messaggero, appunto, chi vuole restare aggiornato e magari non è a Roma e non ne ha così una possibilità più immediata, sul Messaggero tantissime sempre notizie di cronaca su quello che succede in città. Ultimissima segnalazione prima di lasciarci. Dalla Stampa, forse l'inchiesta più ampia il reportage più ampio sulle inchieste che sono state aperte a Milano sullo scandalo dei biglietti e del bagarinaggio online, con anche le interviste a due promoter, uno è David Zard, appunto uno dei promoter più famosi italiani, e poi a Claudio Maioli, che è lo storico manager di Luciano Ligabue. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia, a Lorenzo Nespoli in redazione, e ancora un buon venerdì a tutti da Giulia Crivelli.